Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Finalmente oggi è accaduto quello che da anni mi aspettavo di vedere. L'esplosione di un gabinetto lungo un vagone. Beh, quando succede è drammatico, non basta più il signore, quello con la borsetta misteriosa, dentro cui non si sa cosa ci sia, come il gonnellino di Eta Beta, entra, mette a posto e pulisce. No, proprio è esploso il bagno, c'era l'acqua ovunque, e quindi è intervenuto l'idraulico delle ferrovie, e l'ho visto in azione. Perfetto, stupendo, in pochi istanti il danno è stato riparato, però lui non poteva sfuggirmi, e quindi ho chiacchierato a lungo. Di tradizione familiare siete idraulici? Sì, una lunga tradizione familiare, di non solo di idraulica ma di impiantistica in generale. Il mio DNA non è proprio tecnico, quanto umanistico. Ma quindi quanto c'è di più pericoloso per abbattere ogni pudore? Un idraulico che ha l'animo del poeta, che è la cosa peggiore che può capitare in una casa. Io praticamente dipingo anche. Anche artista? Sì, sono un pittore anche abbastanza noto in zona, diciamo. Ah beh, quindi figuriamoci, sei un elemento di confusione comunque quando entri in casa, diciamo la verità. Allora, il fatto è questo, che quando io entro in casa di persone, dei clienti, chi non mi conosce dice ammazza, io mi aspettavo l'idraulico quello brutto ciccione vecchio. Vabbè, dai, non ci sono più brutti ciccione vecchi, oggi sono tutti giovani, questo è normale, dai. Sì, però poi ecco, quando vede che oltre, diciamo, al bell'aspetto c'è anche un po' di educazione, un po' di modo di saper... Diciamolo con una battuta da Alvaro Vitali, che oltre la chiave inglese è capace di usare anche il pennello, questa è la cosa pericolosa. Praticamente sì. Beh, diciamolo, andiamo subito al dunque, perché... Ma dietro a questo luogo comune, questa voce diceria che l'idraulico in fondo sia una sorta di punto di attrazione onirica, erotica di tutte le massaie, delle casalinghe sole, delle donne che stanno in casa, dà un senso di sicurezza. Quando c'è un problema idraulico è un problema enorme, rischi l'esaurimento nervoso, viene una persona e come per miracolo ti mette tutto a posto. Beh, questa gratitudine in qualche maniera te la esprimono i tuoi clienti. Assolutamente, si instaura un rapporto di fiducia che è pazzesco, che praticamente va al di là poi delle ore lavorative. Ho passato, che ne so, Natale ad aggiustare caldaie, a riparare impianti che non funzionavano pur di accontentare i miei clienti. Sai qual è anche la vostra fortuna? Che oggi un uomo in casa non è più capace nemmeno a cambiare una guarnizione, a stringere il dado di una serpentina, a togliere il calcare da una doccia, non sono più capace a fare niente gli uomini, quindi logicamente chiami l'idraulico anche quando devi togliere il calcare alla cipolla della doccia. Questa è la tua fortuna. Praticamente sì, praticamente è così. E poi le donne soprattutto quando aprono il rubinetto e vedono che l'acqua non esce in abbondanza. Impazziscono, sì. Impazziscono, mi chiamano, oddio che cosa è successo. Viene tu gli sviti il filtrino, pulisci il calcare e ecco fatto. Sì, praticamente cose da nulla. E poi ecco, quando... c'hai un po' di buon senso che fai capire al cliente che tu in realtà non hai fatto nulla di così. Una cliente mi chiama supereroe perché quando mi chiama dice ecco risposto il mio supereroe. Senti, andiamo al punto, ahimè, più doloroso di tutta la vicenda. Sì. Cosa c'è di vero dietro questa leggenda del fascino dell'idraulico da parte delle clienti sole, single, giovani, attempate. Ma esiste veramente questa cosa? È un'idea che ci facciamo noi uomini? Guardi, io fino a qualche anno fa non lo pensavo, perché comunque facendo questo mestiere da sempre dicevo ma saranno bugie, saranno leggende metropolitane quelle dell'idraulico. E invece? Che appunto io quando iniziai a lavorare su Roma mi chiamavo, gli idraulici vedevo che li chiamavano i trombai, I trombai. Ma sì. Quindi tuo padre ti ha mai fatto capire che c'era questo aspetto, che non poteva dirlo in casa, questo lato del mestiere che però te l'avrebbe reso diciamo meno faticoso? Te l'ha mai detto tuo padre? No, assolutamente non l'avevi mai capita questa cosa, è un segreto. No, una persona troppo seria, ligia al dovere. Eh sì, però scusa, è sempre stato così e dai tempi, figuriamoci. Sì, ma poi a mano conoscendo i miei clienti, quelli vecchi che aveva anche mio padre, qualche cosa si è strapelata poi negli anni. Ah, cioè tu hai capito che tuo padre aveva castigato in qualche casa? Che c'aveva comunque la sua platea di fans, no? Che... Eh sì, magari sai, cambiano un po' i materiali, le attrezzature, ma il rapporto è sempre lo stesso. Sì. Dammi qualche esempio di procedura, come funziona? Tu vai in una casa e naturalmente risolvi il problema. Normalmente quando ci vai c'è una donna sola, perché ci vai in orario di lavoro, d'ufficio. Allora guardi, semplicemente le dico, ripeto, il fatto che io tra virgolette abbia questa sensibilità d'animo un po' più spiccata, immagino, rispetto a... Per te è più facile, certo. E miei colleghi del mestiere, io quando entro in casa vedo comunque, entro nei minimi particolari della quotidianità, dei rapporti che ci sono tra marito e moglie, dei rapporti che ci sono tra le... Capisci tutto e... Beh, caro, ma ti rendi conto? Tu metti le mani nella lavatrice, tu guardi il secchio della biancheria sporca, ma da lì si capisce tutto, figuriamoci. Vedi le creme, vedi il sapone da barba, vedi i rasoi, vedi i pettini. Ma poi... sì, le ripeto, anche perché io ho questa passione per la lettura, per la letteratura in genere... Quindi quando leggo romanzi, cose, riesco a farmi un'idea anche della persona solo guardando, che ne so, il tipo di dopo barba che utilizza, oppure per quanto riguarda la donna, il profumo che usa, oppure... Sai tutto, dai, entri in un bagno di una donna. Sì, e quindi riesco a capire subito una donna... I punti deboli. Sì, perché nella maggior parte dei casi le posso dire che le donne sono, tra virgolette... frustrate o abbandonate, trascurate dalle accortezze di un marito che è sempre fuori per lavoro, è sempre in giro, è sempre preso da altre cose. Quindi quella, diciamo, è la loro avventura. Non capita che entra un uomo in casa, che sei sola normalmente nella vita di una casalinga, che entra un uomo e siete soli in casa. Con l'idraulico capita, però sì, quando vedo una donna che diciamo è diffidente, che magari entra uno sconosciuto in casa, vedi, io basta che le dico due cose, per esempio le faccio apprezzamenti su qualcosa, tipo un profumo che c'è, dico ah bello questo profumo, lo regalai anche io a mia madre perché mi ricordava qualcosa. E loro... Ma tu dici tua madre, che tu parli di un rapporto d'età abbastanza squilibrato? Cioè, una potrebbe essere tua madre, glielo dici. Sì, attualmente ho un rapporto con una mia cliente che ha il doppio della mia età. E tu quanti anni hai? 28. Quindi una sessantenne, bollente. Sì, 59 anni. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world. Come to the world. And baby, let me show you things. Time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful. stranger. Don't wanna know your name. Beautiful stranger. Just wanna take your hand. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E com'è nata la cosa? Ecco, facciamo un esempio, com'è nata questa storia? Allora, mi chiamò per fare dei lavori in casa, praticamente per montare una caldaia, dei termosifoni. Beh, quindi è un lavoro complesso, ci sei stato qualche giorno. È un lavoro complesso. Io mi... Che è una settimana di lavoro, 4-5 giorni. Sì, però come le ripeto, a fare il lavoro quello grosso, vero e proprio, ci mando i miei dipendenti. Tu vai a fare la rifinitura? Sì, diciamo le cose più particolari. Ecco, smontare una Geberit non è semplice, quindi... Se ci mando un ragazzo ho paura che magari poi combini un casino. Ma mi stai riempendo di orgoglio, io che sono capace non mi sembra possibile. Sì, guardi, se non facesse il giornalista la prende a lavorare con me. Beh, oddio, visto il cotè potrebbe anche essere interessante. Sì, guardi, come dicevo... Tu sei andato a dare, diciamo, l'ultima pennellata, quando avevano finito gli operai, a vedere se tutto era a posto. Sì, e vabbè, in questo caso la 59enne mi cerca, mi scrive in tutto. Ma ti aveva lanciato dei messaggi, l'avevi capito che c'era un terreno facile? Sì, l'avevo capito. E da cosa? Occhiate? Ma guardi, già il fatto che quando ci sono gli operai si veste in un modo, quando poi mi chiama per... Si mette, si acconcia? Sì, perché vuole vedermi per... E com'è la tenuta da ricevimento di idraulico, che si capisce? Come si veste? È molto... In déshabillé, cioè ti fa finta che sia appena alzata? Sì. Ah, ecco. Spesso con la classica veste da notte, molto... Ah, con la vestaglia, proprio come nei film? Sì, guardi... È come nei film di Alvaro Vitali, lo stesso accade. Guardi, le dico che in alcuni casi non è un film di Alvaro Vitali, ma ben altro... con altri clienti. Film di Rocco Siffredi, vorresti dire? Appunto, sì. Però voglio capire, queste cose bene le devi raccontare, perché usciamo dall'ipotesi, dal sentito dire, una testimonianza vera. Cosa accade a un idraulico con la media donna italiana che vuole approfittare non soltanto della sua chiave inglese, ma anche delle sue attrezzature personali? Allora, le faccio un esempio su Roma, per esempio. Facciamo su Roma, così. Un giorno... Dove abito anche io, quindi. quelle cose fanno bene all'anima, dimmi. Sì, un giorno andai a controllare dei lavori che stavamo facendo e c'era anche questa signora che stava finendo casa, quindi andai. E praticamente poi lì, dopo un paio di giorni, mi disse che aveva una perdita. Una grossa perdita, mi disse. Lei ce l'aveva o l'impianto? Era ambigua, non si spiegava. Era ambigua la cosa. Ad un'altra casa. Quindi prendemmo un appuntamento per risolvere questo problema, per tappare questa perdita. E quindi andai a casa sua e lei si fece trovare praticamente minigonna, calze a rete. Tipico atteggiamento da casa. Ma proprio... Era proprio conciata la battaglia, l'avevi capito? Sì, sì. E in quel caso che si fa? Non si perde tempo, è inutile far finta di niente. Guardi, allora io prendo il mio lavoro molto seriamente, quindi cerco sempre di evitare un contatto, perché comunque non mi va che poi, diciamo, passi per quello che... lo chiami e poi se ne approfitta. No, è anche rischioso, poi magari se trovi il personaggio sbagliato, ma come si permette lei? Ecco, non si può. Io però in quel caso praticamente era un film a luci rosse, ma quelli proprio di quelli più, non lo so, riusciti bene, perché comunque io mi rendevo conto della situazione che veramente un regista non avrebbe fatto quello che è successo a me quel giorno. Qui, diciamo, l'approccio quanto è durato? Immediatamente hai capito com'era l'area? Guardi, le dico quello che è successo. Praticamente mi disse che la perdita era sotto il lavandino. E io ho detto sì, allora mi faccia vedere il lavandino. Lei molto naturalmente si abbassò sotto il lavandino. Ma come nei film, nei film porno è così. Sì. Viene idraulico, la signora si china e si vedono le mutande, o le non mutande. Sì, e praticamente mi disse ecco la perdita. E poi si gira e mi dice: so che voi idraulici avete degli attrezzi belli grossi. Vabbè, dai, sembra un film, dai, non è vero, dai, tu stai inventando. Guardi, no. Questo è il copione di che ne so, Rocco, il tubo che perde, qualcosa del genere, guardi, su quei filmetti. Guardi, è andata esattamente così. Dice che lei di quella letteratura si nutriva. Quindi calza rete, si è chinata, dice: questa è la perdita, tira fuori l'attrezzo, è così. Sì, ma poi non è che finì là, Con lei ebbe una relazione che durò 2 anni. E beh, uno mica la lascia, una così, se la trova è una benedizione, chiaro. No, ma poi chiamava amiche, cose varie, così. Ero io quello che dovevo interrompere le cose, perché altrimenti andava troppo oltre. In quel caso ha fatto saltare la mia vera relazione dell'epoca, perché questa mi cercava. Cioè ti sei lasciato con la fidanzata per colpa di questa? Io non riesco a avere un rapporto sentimentale duraturo. Cioè 2 sono saltati per i miei clienti. Vabbè, cosa succede però, sai? Che gli racconti alla fidanzata dopo che sei stato la pantera, calzarete, inginocchiata, il tubo, la perda, vai dalla fidanzata, cuoricini, amore mio, andiamo al cinema. Dai, non si può, è chiaro, quella finisce, lo so. E quindi magari all'inizio, ecco, c'è sempre un po' di, sai, un po' di brio, no? Quando succedono. Queste cose succedono solo nei film, ti succedono nella vita, è chiaro. Sei giovane, che devi fare? Ma fai però bene. Però poi nel tempo, quando queste relazioni, vedi che non hanno termine. È il lato pericoloso, è quello il fatto. Non è il lato pericoloso, perché praticamente è successo una volta, 2, 3, 4, poi mi sono reso conto che sono rimasto sempre solo. E non in quel caso, guarda. Dalla mia età adulta ci sono varie scappatoie. L'una è quella di fingersi impotente. Ci sono vari sistemi, cioè, guarda, caro, ho avuto un problema, non riesco più, purtroppo. O se no, fingere dei grandi lutti e dolori. Mi è morta la nonna, la mamma, la zia, scusami, oppure fallimenti, o se no brutte malattie, cara, mi sono fatto delle analisi, scusami, ma non posso proprio, scusate, mi hanno scoperto qualcosa veramente brutto, così. Quando uno dice di essere molto malato, cade anche il pathos erotico, se non te le levi più dai piedi, è assurdo, cioè diventa un rapporto troppo sbilanciato, non è più una tua vita, perché figurati, non mollano più l'osso. Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, ce n'est pas normal. Je n'ai plus d'estime pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu, et le pire rire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est l'alarme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. Mais moi, informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Il problema è appunto questo, perché io sono abbastanza romantico. E tu poi ti innamori pure, c'è questo problema, lo so. No, vorrei avere un rapporto, una relazione seria da portare avanti, perché comunque preferisco il matrimonio, quello tradizionale, a queste scappatoie. Certo, sì, lo capisco, però tu gestisci sempre un mestiere che ti pone di fronte a queste tentazioni. Pensaci, perché finché non raggiungi la pace dei sensi la vedo un po' difficile il matrimonio. Perché sì, guardi, è difficilissimo, perché anche in questo momento è un continuo. Questa mattina dovevo andare a fare un lavoro in un paesino qui in provincia. Appena si seppe la notizia, subito un'altra cliente, sempre lei sposata, semi divorziata, da subito detto: vieni a casa mia, vieni a casa mia, mi serve anche a me. Sì, ho una perdita anch'io, così. Magari c'è chi mette la scusa dello scaldabagno che gronda acqua. Ah, ecco. Mette la scusa del mi gocciola lo scaldabagno, tu devi capire. Sì, sì, oppure altro. Il problema è appunto quello che poi entri in un circolo vizioso che non riesci più a uscire. Eh sì, perché non può essere una cosa leggera, alla fine diventa, è patologico, capito? Una volta inneschi un bisogno, capito? Quindi come fai dopo a disinnescarlo? A meno che non vi fate una sorta, la passi un altro collega, come passi un cliente. Ma non ce ne sono altri che conosca, cioè che magari potrebbero in qualche modo andare al posto tuo, me l'immagino. Ma semplicemente perché sono tutti di una certa età e magari hanno già dato, diciamo, sono sfiancati dal lavoro, certo. Hanno ormai tappato tutte le falle in tutte le caldaie possibili, ormai stanno tranquilli, certo. Sì, non c'hanno più. Pensano al loro rubinetto che gocciola piuttosto, ormai a una certa età quello è il problema. Sì, è il problema mio adesso è appunto quello che non riesco ad avere relazioni serie, quindi questa cosa mi sta... Vabbè, scusa, ma sei giovane ancora, adesso non te porre, datti un limite, per altri 2-3 anni ancora mi diverto, poi metto la testa a posto, la gente fa così di solito. Vado soltanto a staccare la fattura e prendere i soldi, il resto ci mando gli operai, ecco, è così devi fare. Sì, spero che prima o poi succeda, perché altrimenti si vive nel caos più... Sì, il problema è che perdi anche clienti dopo, capito? Tu potresti anche mettere in giro la voce, sono diventato gay, fine, non ti cercano più, ma perdi un sacco di clienti, quello è il problema. Guarda, io faccio finta di, ecco, a volte, ecco, di i messaggi non rispondo, se c'hanno problemi chiamano in ufficio e a volte mando dei ragazzi. Ma la media quante richieste sono al giorno di aggiustamenti di caldaie, per capire un pochino il lavoro dell'idraulico? Mediamente 3-4 al giorno. Quindi se tu volessi dire, voglio esagerare, tu ogni giorno potresti avere 4 avventure diverse, volendo, no, per assurdo. Vabbè. Le avventure capitano solo con in alcuni casi, ovviamente la caldaia la vai a riparare anche la vecchietta di 80 anni. E in quel caso lì scappi, che fai? No, in quel caso io faccio il mio mestiere. Ma diciamo, c'è un target medio, se tu dovessi definire la tua cliente medio con, diciamo, con servizio speciale, cos'è, un 40-50enne, sposata, fammi capire la tipologia. Allora... Se le più, diciamo, tra virgolette, non mi piace dire questi termini. No, vabbè, le più, diciamo, quelle che hanno più richieste, ecco. Più richieste sono per lo più donne sposate che hanno conflitti con conflitti in famiglia, giustamente. Sì. E sì. Quindi quando vedono, ripeto, c'è una cliente che mi chiama il mio supereroe, cioè quando c'è un problema che ce lo risolvo in 2 minuti, lei proprio gli vedi il sole negli occhi. Vabbè, supplisce a quello che non fa più il marito. Quindi è il tipico lavoro che i mariti non sono capaci più a fare, ecco. Sì, praticamente. E quindi la media va sempre dai 30 fino ai 60. 30-60, vabbè, non 30. Aveva 60 anni, anzi, perché devo buttare via 60 anni? Assolutamente. Sono le mie coetanee, sono donne affascinanti. Assolutamente. Hanno un po' più di vergogna nel mostrarsi, però poi sono quelle che non ne riescono a fare più a meno. Cioè, diciamo, è più difficile l'entrata, però una volta aperta la porta non se ne esce più, lo so. Sì. Non mollano più l'osso. Vabbè, senti caro, io penso che abbiamo svelato quello che era un non detto, che alla fine qualcuno da dirlo, perché nessuno ha avuto il coraggio come te di portare sul piano della trasparenza e della schiettezza quello che è un grande fantasma che ha agitato tutti noi uomini che facciamo altri mestieri. Ora lo sappiamo, quando una donna chiama l'idraulico a casa c'è una percentuale altissima che, oltre a occuparsi dell'impianto idraulico, si occupi anche dell'idraulica personale della tua moglie, fidanzata, amica, donna del cuore, quello che vuoi. E purtroppo può succedere. Invece che pensare a fare lavori come l'avvocato, il commercialista, il giornalista, il medico, fate gli idraulici e ci penserete voi, sia al rubinetto sia alla caldaia. Mi sembra una giusta conclusione, no? Certo, io vorrei dare un consiglio a tutti i miei. Dai un consiglio, ragazzi. Sì. Che c'è veramente bisogno di idraulici, elettricisti e altri lavori manuali, perché sono scomparsi e c'è una grande richiesta, al di là poi del divertimento ipotetico che potrebbe... Ecco, ma ecco, se uno venisse con te, diciamo, un ragazzo volenteroso, quanto ci metterebbe a imparare il mestiere, se fosse volenteroso e bravo? Ah, io credo che già con un paio d'anni... Un paio d'anni, se lavora bene... Sì. Può cominciare a avere un po' di autonomia. Ecco, lanciamo un appello dal treno, diciamo. Ecco, se qualcuno è nell'area, cos'è? Periferia di Roma, Interland Romano, che area è? Sì. Nell'Interland Romano c'è un idraulico che sarebbe disposto a offrire un posto di apprendista idraulico, vi insegna un mestiere e forse, se siete bravi, se ci sapete fare, c'è anche dell'altro, senza entrare nei particolari. C'è anche qualche caldaia che perde, che probabilmente ve la potrebbe anche passare. Visto che lui, certo, ne ha tanto. Poi passerò. Vediamo se all'appello risponde qualcuno. Se qualcuno risponde, inviterò entrambi nel treno e parlerete insieme e farete di fronte a me il vostro primo colloquio di lavoro, in cui tu valuterai l'attitudine sia per l'una che per l'altra funzione, se no non funziona, non è poi portarti dietro qualcuno che poi all'occorrenza non è all'altezza. Quindi di essere bravo a fare l'idraulico e bravo a fare anche, diciamo, l'accessorio romantico del mestiere dell'idraulico. Non guasta. Grazie, buon viaggio, alla prossima. Forse troverò un apprendista, o se no vengo io, perché sai, con la racchettira, con la Geberit me la cavo, mi insegna altre due o tre cose. Per il resto attingerò la memoria. Ciao, buon viaggio. Aspetterò volentieri. Ciao, ciao. Arrivederci. Ciao. Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Proprio quando ero convinto e rassegnato che sarebbe stato un viaggio lungo, monotono e tutto sommato ripetitivo, finalmente si è aperto lo spiraglio. È entrato lui e si è seduto con la sua borsa sportiva e col suo attrezzo in mano. Attrezzo di che tipo? Ma un attrezzo rotondo, una cosa che normalmente vedo usare i bambini nei parchi, un frisbee o qualcosa del genere, che si usa per giocare. Ma lui mi sembrava seriamente intenzionato a raccontarmi l'uso che ne fa lui. In campo quanti si sta? In campo si gioca 7 contro 7. Ma quindi si può giocare in un campo da calciotto praticamente? Sì, in realtà il campo è 100 metri per 37, è le misure ufficiali. E anche al coperto si può giocare, sì? Si può giocare anche indoor, in palestra si gioca 5 contro 5 e anche su sabbia sempre 5 contro 5. Ma chi l'ha inventato questo sport? È nato nei college americani a metà degli anni 50. Ma quindi è antico, non se ne parlava, ma è antichissimo. Come non se ne parlava, in Italia la federazione esiste dal 79 per esempio. Ma praticamente anche... è come giocare a frisbee, no, un frisbee come... professionale, ecco, così. Sì, esatto, è come giocare a football, però con il posto della palla al frisbee e senza contatto fisico. Si tira con le mani però, no, che piedi? Si tira con le mani, certo, e non c'è l'arbitro e si gioca misto, maschio e femmina. Vabbè, questa è già una cosa bella, è l'unico sport in cui ci sono le squadre miste. Sì. Ma maschi contro femmine o squadre di maschi e femmine misti? Ci sono tre categorie, maschile, femminile e mista. È come quando si faceva l'elementare maschi contro femmine, è interessante. Sì. E la categoria mista è la categoria dove in una squadra ci sono un numero uguale di donne e uomini e giocano insieme nella stessa squadra. E siccome ogni meta si cambia campo, ogni meta si decide se vanno più uomini o più donne. Ah, tre o quattro. Ah, beh, mi sembra è lo sport del futuro, se ci pensi bene. No, noi lo definiamo così. Quindi vedi che c'è qualcosa di più, non è soltanto questo frisbee, che no, poi è diverso, dai frisbee dei bambini è un po' diverso. Beh sì, nel senso che questa è una disciplina sportiva. No, ma l'oggetto che ci si tira, diciamo, è un po' diverso. È uguale, identico, semplicemente quelli che si usano per il gioco sono con delle caratteristiche standard, diciamo. Cioè esattamente un frisbee come quello che puoi comprare in una bancarella, no? Gli stessi, allora, in una bancarella sono un po', diciamo così, di bassa qualità. Un frisbee che usiamo noi è di 27 cm per 175 grammi di peso. Quindi è davvero una sua misura standard. Certo, sì, come qualsiasi attrezzo di qualsiasi disciplina sportiva. Questo, chi decide? In caso di controversia, chi decide? Questa è la cosa innovativa, nel senso che il regolamento integra proprio formalmente il concetto di fair play. Quindi un giocatore, e questo è anche questo sancito dal regolamento, un giocatore è sia giocatore che arbitro. Tu vuoi dirmi che giochi al primo sport di squadra etico, in cui sono brave persone, si danno la mano, dicono ma no, guarda, scusa, ho sbagliato io, ma no, permetti, ho sbagliato io, ma no, t'assicuro, guarda, è colpa mia, così e funziona. Hai riassunto benissimo. Questo vedi, allora ho intuito, ho capito subito che non è solo uno sport, è una disciplina etica, è come una sorta di addestramento zen a comportarsi in maniera diversa nei confronti del prossimo. Certo. E beh, scusa, ma ti spieghi perché non ha successo? Fammi capire, ti sei dato la risposta da solo. E sì, i tifosi sì, che fanno? Cioè, i tifosi di questo sport che fanno a questo punto? Noi ne siamo assolutamente consapevoli che è questa la difficoltà per le persone di accedere allo sport, perché si tratta di un'inversione culturale da questo punto di vista. Ma come si chiama? Lo sport mi viene definito, ha un nome. Lo sport si chiama Ultimate, Ultimate. Ultimate, ecco, tu immagina un derby di Ultimate, ti dico quello più vicino alla mia realtà, Roma-Lazio in Ultimate, stadio olimpico, le curve che si dicono, se i giocatori scendono, se danno la mano, dicono guarda che eri fuori, no, sì, c'hai ragione, guarda, ero fuori zona, fuori gioco, non importa, dai, così, che fanno i tifosi? Allora, ti posso dire cosa farei io in quanto tifoso, nel senso, conoscendo lo sport, mi aspetto che succeda così, semplicemente, quindi mi godo la partita e so che i giocatori giocano per il bene dello sport e non per la prevalsa, anche a costo di essere fallosi o magari rubando, ecco. Ma il fine ultimo cos'è? Tirare il frisbee in porta, come funziona? Funziona che ci sono due aree di meta dentro al campo, profonde 18 metri, e bisogna riuscire a passare il frisbee a un proprio compagno di squadra dentro la meta avversaria. E fine, poi e quello è punto. Esatto, si fa punto, la squadra che ha fatto punto rimane nell'area di meta che ha conquistato e da lì si ricomincia con un lancio chiamato pull, che è come quello che avviene nel rugby all'inizio. Ah, per sì, esempio. Capito, sì. Quindi non c'è bisogno di metterla il frisbee in nessuna porta, niente. No, semplicemente sì. È antitetico a tutti i giochi di squadra in cui bisogna comunque mettere una palla canestro in porta. Esatto. Allora somiglia un po' più al baseball, forse, magari come. Sì, probabilmente da questo punto di vista sì. È più vicino come schema, come struttura. Molto simile al football, ecco, da questo punto di vista. Quanti siete a giocarlo in Italia? In Italia siamo circa 2500 al momento. Ma c'è un campionato, cioè? C'è un campionato italiano, c'è il campionato europeo, c'è il campionato mondiale e negli Stati Uniti, attualmente, che è il paese dove è più sviluppato, esiste anche una lega professionistica. Quindi quanto ti impegna l'allenamento innanzitutto di questo sport? Per capire quanto poi... Tu sei un professionista a questo punto. Diciamo di sì, nel senso che avendo fondato la squadra nella mia città è diventato un secondo lavoro, però non sono pagato nessuno. Ma quando giocate vengono a vedervi, che ne so, le fidanzate, i parenti, cioè, oppure non gliene importa niente a nessuno? Com'è? Dipende, nel mio caso la fidanzata l'ho trovata giocando e gioca. E anche lei è una giocatrice? Sì. Scendete in campo assieme? Sì, esattamente. Questo nessuno sport si può fare, però. Penso che nessuno sport. Quindi dal punto di vista della narrazione dello sport, tu pensa bello una partita in cui due famosi campioni, marito e moglie, fidanzato e fidanzata, giocano uno contro l'altro. È fantastico. È estremamente poetico. In nessuno sport esiste questa cosa qui. No, assolutamente. Ma ci si mena anche sul campo, no, naturalmente. No, il contatto fisico è vietato ed è regolamentato. Ma non ci si tocca nemmeno, quindi non ti fai manco male, niente. No, succede ovviamente di farsi male incidentalmente. Uno cade, certo, si fa male. Poi il regolamento dice chiaramente che il contatto fisico deve essere vietato. Nei casi in cui incidentalmente questo avvenga, ci sono tutte delle Ma se non c'è l'abito, chi è che dà la punizione a chi fa il contatto fisico? Da ecco, solo? Questa è la cosa più difficile da capire, nel senso che si autopunisce. Il regolamento dice che ogni giocatore, cioè si presuppone che ogni giocatore non commetta fallo intenzionalmente. Quindi uno che comincia a giocare in qualche modo accetta questo cambio di mentalità, e se non lo accetta, prima o poi lo deve accettare, perché comunque No, questo però è un punto interessante. Allora, questo dà per preso, è come se fosse una sorta di compagnia religiosa, come dei monaci, perché alla fine vi comportate come dei monaci, perché sì, avete una regola etica che va oltre, diciamo, tutto quello che finora ha rappresentato lo sport, per quanto sia alla fine la gomitata, il calcio, la piccola scorrettezza, fa parte comunque, tutti lo sanno, delle regole non scritte di qualsiasi sport, dalla pallanuoto al rugby, tutti sanno, sì, non si può, però magari se puoi sott'acqua dai un calcio sulle palle. L'arbitro non vede. Esattamente, ecco. Allora, qual è la vostra speranza, il vostro obiettivo? Qual è? Di passare alle Olimpiadi, arrivare alle Olimpiadi? Beh, questo è l'obiettivo di tutta la comunità frisbistica mondiale, e la Federazione Mondiale è sotto l'osservatorio del CIO già da 2-3 anni. E in Italia il CONI l'anno scorso ha riconosciuto il flying disc come sport ufficiale, quindi molti passi, soprattutto negli ultimi 10 anni, sono stati fatti in questa direzione. Noi speriamo che si possa continuare in questo modo e possa esserci una crescita esponenziale, e ci crediamo tanto, ecco, chi gioca ci crede, accetta di crederci. Vabbè, sono contento, ho scoperto qualcosa che non conoscevo, e soprattutto, se possibile, diamo visibilità a qualcosa che probabilmente la gran parte delle persone non conosce. Esiste uno sport che è l'antisport per eccellenza, ma diventa una palestra di buone maniere per le persone che lo praticano. Mi fa piacere, buon viaggio, ciao. Grazie mille, ciao. Je savoure ces instants fragiles, ces quelques jours, tout près de toi, perdus tous les deux, sur cette île où le temps passe et puis s'en va. Je savoure ces instants fragiles, ces quelques jours, tout près de toi, perdus tous les deux, sur cette île où le temps passe et puis s'en va. Ne plus penser à elle, à cette saloperie, pouvoir espérer qu'elle puisse t'oublier aussi. Passer la nuit à en rêver, s'offrir le droit d'y croire encore, deviner la mer déchaînée et mettre en parenthèse la mort. Je dévore ces instants fragiles, ces quelques jours, perdus tous les deux, sur cette île où ton rire vole et puis s'en va. Je dévore ces instants fragiles, ces quelques jours, tout près de toi, perdus tous les deux, sur cette île où ton rire vole et puis s'en va.